Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, benvenuti al nostro aperitivo dolce, amaro, frizzante, mai flat, mai piatto. Siamo studiati oramai per il nostro perlage delle bollicine con i compari dei Conti della Belva, che vi salutano e vi ringrazio per l'ascolto, e ora vi dirò di che cosa parliamo, ma intanto i saluti da parte di Oscar Giannino, Mario Seminerio, in attesa che si manifesti da qualcuno dei quattro angoli del mondo, come sempre il nostro caro Alberto Carnevale Maffè, e invece Renato Cifarelli oggi si scusa, ma per la sua impresa in procinto di fare una specie di tour de force in tutta l'Asia, a dire la verità, c'è un programma che mi ha lasciato senza parole. Formidabili questi importatori, questi esportatori italiani che sono a testa bassa in tutti i continenti, devo dire la verità. Allora, di che cosa parliamo oggi? Potete pensare di farci un favore, chiamateci all'800240024 per gli sms 349-238-6666. Iniziamo con, ovviamente, la rubrica fissa del punto della settimana con il nostro grande Mario, e ce n'è di che dire, ma visto che c'è la legge di bilancio e così via, ci sono alcune vicende internazionali su cui dire qualcosa, la Brexit e così via, ma poi dedicheremo intanto mezz'ora a uno dei fatti centrali di questa settimana, e cioè l'avvio dello scambio di colpi d'artiglieria all'interno della commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche, e quindi l'emergere di alcuni profili concreti direttamente dalle parole di chi è stato ascoltato per la Consob e per la Banca d'Italia. Vi chiedo subito che idea vi siete fatto di fronte a autorità che dicono ma lei non ci informava, l'altra che dice beh ma noi non dovevamo informarvi. Ah, non dovevate informarci? No, per dire la verità noi comunque qualcosa dicevamo, voi non lo capivate, insomma, ecco. Diciamo che questa settimana dimostra che chi da anni chiede, fatti alla mano però, di ragionare sull'impianto regolatore dei regolatori italiani ha portato, secondo me, armi e argomenti a sostegno dei propri ragionamenti. Però noi siamo curiosi di capire, soprattutto se ci avete rimesso dei soldi, da Veneto, Etruria, MPS e così via, che cosa vi appare di questa discussione leggermente surreale in punta di chiusura della legislatura con una commissione d'inchiesta che probabilmente non andrà da nessuna parte, ma intanto discuteremo tra noi e con i nostri ospiti di questo. Dopodiché ci sarà un aggiornamento sulla legge di bilancio per la parte fiscale, perché ogni giorno prepara delle novità. Devo dirvi la verità, vi accenno solo a due, perché poi le approfondiremo quando dedicheremo attenzione concreta con un nostro ospite su questo. Devo dire che l'emergere della tassa di scopo con più di 600 milioni sul fumo che viene dichiarata per i farmaci oncologici e poi si scopre che serve a dare invece soldi in tasca ai dipendenti della sanità è una classica cosa di quelle fantastiche. Il raddoppio della tassa d'imbarco aeroportuale e la comparsa anche di quella portuale, tassa che nacque per sostenere l'Italia, che nel frattempo si vede protratto fino alla fine dell'anno prossimo, sostegno pubblico è un'altra di quelle bellezze straordinarie, per così dire, ma vedrete che ce ne sono delle altre. C'è anche una sentenza della Cassazione che mi ha fatto rabbrividire, di cui parleremo, perché conferma che siamo dei veri e propri sudditi in questo ordinamento. E c'è l'emergere di questa cosa incredibile di milioni di italiani che per anni hanno avuto, no per anni, in realtà per due anni, visto che la Tari c'è da due anni, hanno avuto un pagamento della Tari totalmente illegittimo per somme che vanno tra 50 e fino al 72% della Tari. Vedremo perché, ma il problema è che con ogni probabilità non vedrete un soldo indietro, anche se lo chiederete. Vi spiegherò perché, ma non lo vedrete, e questo dà l'idea di come siamo messi. Dopodiché avremo una parte dedicata invece, e anche su questo chiamateci, un anno di Trump, qual è il bilancio, qual è la vostra impressione? Aveva promesso lo spaccamontagne, lo fa a parole, di fatto i danni sembrano molto più contenuti, meno male, però la riforma fiscale avrà qualche chance di passare rispetto a tante altre cose che sono state solo annunciate e poi finiscono nel binario morto. Come interpretarla questa cavolo di presidenza, che intanto in questa settimana ha preso due bottarelle, perché ha perso nel New Jersey ha perso in Virginia, ha perso anche a New York con la conferma di Bill de Blasio, ma al di là di questo è un problema importante perché proietta su questo anno che arriva con la Brexit veramente sulle secche, con la Catalogna. Però abbiamo l'ora, abbiamo l'ora adesso, Oscar. Ma l'abbiamo sempre saputo che era quell'ora, però ieri Lord Kerry ha detto non è affatto vero che andrà così. Quindi insomma, è un anno in cui l'Italia si presenterà dopo le elezioni con un governo. Attualmente oggi ci sono sondaggi, quella della sera, ancora una volta, sono sondaggi interessanti perché vedono una redistribuzione di quote, il PD che perde, i 5 Stelle che tornano su, ma al di là di questo, malgrado anche l'ottimo risultato e potenziale del centrodestra, vede appunto, come al solito, nessuna maggioranza uno dei tre poli, quindi l'Italia farà un governo mentre il cui diminuisce, mentre ci rimarranno ombre internazionali di questo tipo, e tutti e tre vi diranno che sono contro le regole europee sui deficit. Tutti e tre i poli convergono su questo, auguri all'Italia. Oltre a questo però, cari compari, Mario, cosa segnaliamo? Ma allora, questa settimana al decreto legge fisco è stato presentato un emendamento a firma del Partito Democratico, ma questo rileva poco perché poteva provenire da qualunque schieramento politico visto il clima che c'è in questo paese. Per quanto riguarda le concessioni balneari, le famose concessioni balneari, perché in questo paese, come sapete, stiamo lottando strenuamente contro la direttiva Bolkestein. E dice, per un posto al sole, esatto, esatto. E contro il trionfo di questo stupido neoliberismo. Esatto, praticamente le concessioni balneari in essere al 31 dicembre 2009, leggo, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, è ovvio, è concesso un periodo transitorio da un minimo di 30 anni fino a un massimo di 50 anni. È 50 anni, ma vedi, cioè, che una volta che pensiamo al lungo periodo sembriamo il Partito Comunista Cinese, ma dai, ma perché te la ti lamenti? Considerando che niente è più definitivo del provvisorio in questo paese, anche questo emendamento, che secondo me è uno sberleffo, perché è difficile che chi lo ha proposto sia sano di mente o magari voleva fare veramente una, voleva perculare, diciamo, il paese. E no, alla fine è uscito questo emendamento. Poi un'altra cosa che voglio segnalare, siccome la nostra classe politica deve tracciare la strada soprattutto alle giovani generazioni, deve porsi come faro delle giovani generazioni, questa settimana io ho letto un commento sul Corriere attribuito al ministro dei beni culturali Franceschini, il quale ha detto, virgolette, pertanto io cito la fonte e non mi assumo responsabilità, talvolta a scuola si copia per essere promossi, praticamente ispirandosi, dicendo facciamo anche noi una coalizione molto eterogenea come quella che sta facendo il centrodestra. Ecco, io vorrei dire al ministro Franceschini, ammesso che il ministro Franceschini abbia mai pronunciato questa frase che gli viene attribuita per virgolettato, che questo non è esattamente un buon esempio da fornire almeno alle giovani generazioni da parte di un signore che fa il ministro dei beni culturali. Ecco, quindi ti dico subito, si provano con me, finiscono direttamente. No, ma io non voglio fare del moralismo, però cioè queste furbizie italiane avrebbero anche rotto le palle e sarebbe anche ora di chiudere. Invece, posso dare una bella notizia? Cioè, questo liberismo trionfante. Aspetti un altro giovedì sera, no? Giovedì sera, partito da Roma, ero lì. Ho visto partire un bellissimo 787 della Boeing verso Newark. Ed era un volo della Norwegian Airlines. A 179 euro. Sì, certamente dovete essere magri, viaggiare con uno zainetto di 10 kg, portarvi la coperta e la schiscetta da casa, però 179 euro. Capisci? Noi stiamo mettendo centinaia di milioni delle nostre tasche per tenere in vita l'Italia. Ora, io quel giorno a Fiumicino ho pianto. Ma il carrello di questo aereo è confortevole, perché penso che si viaggerà abbracciati al carrello. Beh, no, effettivamente, perché il low cost, un conto è un low cost qui a Londra, un conto sono poi 8-9 ore di volo, però insomma, io la trovo una notizia bellissima che gli italiani possono andare così a fare un giro a New York per 179 euro se viaggiano leggeri, e grazie a tutto questo, grazie ovviamente alla pianificazione centralizzata del governo, del ministero, che ci garantiscono una compagnia di bandiera, vero? Mentre le poste di cui ero ospite abbattevano naturalmente il valore della loro compartecipazione, altre 69 hanno difesa autarchica dei cieli italiani, cari amici in ascolto, perché questo noi facciamo con l'Italia, una roba senza senso proprio. Senti, posso però ricordare un episodio di difesa dell'Italia avvenuto esattamente 100 anni fa come oggi, perché abbiamo parlato tanto della guerra 15-18. Sì. l'unica volta in cui l'esercito italiano si fece onore, non in quanto esercito, ma in quanto singoli drappelli di soldi, fu esattamente questa notte, 100 anni fa, nel primo tentativo di superamento del Piave, quando Cadorna era già ormai stato di fatto esautorato, quando non c'erano più ordini centrali, quando il governo non interferiva con le scelte dei soldati sul campo, l'Italia... Hai capito? Se la cava con le unghie, con i denti, dal basso, non più sottoposti al regime repressivo della storia di Cadorna, gli italiani difendono il proprio territorio. Guarda, è una bella storia, forse va ricordata, lo ricorda Cazzullo stamattina sul Corriere, è un bel pezzo da leggere, forse un filino, diciamo, retorico, ma sicuramente... Un filino, però nella tradizione di quella penna, per così dire, io preferisco l'altra mattina Mattia Fetta a dirvi la verità, ma ha i suoi gusti, il Corriere di... Non si discute. E detto tutto questo, torniamo tra pochissimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non vi preoccupate. Allora, carissimi ascoltatori, una settimana con pochissima macro, io dico solo qualche parola, che poi la parte fiscale la riprendiamo dopo le 11 delle novità di questi giorni sul materia fisco, però io mi limito a dire quello che sta avvenendo, perché vi sia chiaro, perché i giornali su questo stanno dedicando per il momento poca attenzione agli sviluppi che sono in corso sulla legge di bilancio, perché come è evidente dopo il voto in Sicilia, il contrasto tra i partiti, tra i poli, ha un aspetto preminente, però nei segnali che arrivano dall'aula parlamentare si capisce quanto segue. Per esempio, Renzi ha immediatamente capito che va concretamente abbandonato rapidamente l'atteggiamento di dire ai fuoriusciti di MDP non ho bisogno di voi, perché altrimenti nei collegi nominali non ha chance, cioè rischia di perdersi al nord che al sud. Ergo, per esempio, in Parlamento ieri immediatamente si è capito che il governo con Enrico Morando ha detto sul partitico sanitario, che è una delle proposte di MDP formalizzate all'inizio della legge di bilancio, dicendo noi non siamo d'accordo con questa impostazione troppo restrittiva, il governo ha immediatamente dichiarato che è pronto a parlarne, esattamente come il governo ha iniziato difendendo formalmente, e io questo è una cosa positiva, il fatto di non bloccare intanto la direttiva con cui è stata adottato l'aumento automatico per l'aumento del requisito anagrafico per le pensioni di vecchiaia, e quindi 67 anni al 2019, ma contemporaneamente l'estensione dei lavori usuranti, che comunque consentono la deroga piena ad andare in pensione a 61 anni e 7 mesi o 63 anni e 7 mesi, quella estensione che il governo intanto ha già formalizzato e che verrà ulteriormente estesa in Parlamento, vedrete, cioè per le 5 categorie aggiunte alle 11 per cui era disposta l'eccezione all'ape social, non quella generale al tetto di deroga anagrafica, quella roba lì significa attualmente già il 13% del totale dei pensionandi nel 2018. Si rifiutano di fare per il momento una cifra sulla stima di copertura, ma sono miliardi di deficit previdenziale in più. Ecco, segnalo queste due cose perché indicano, come purtroppo temuto e previsto, che la legge di bilancio avrà i saldi che si troveranno molto diversi alla fine di questa trattativa politica, che riguarda soprattutto la famiglia PD sinistra. 1, 2, poi vedrete quanti altri emendamenti fioriranno. L'Unione Europea ha fatto non bene, benissimo, a fare questo report in cui dice: signori, il punto non è solo che voi avete una correzione del deficit strutturale che dovevate fare di 0,6 del PIL l'anno prossimo, vi abbiamo dato lo 0,3, la fate di 0,1, ma il problema è che negli anni a venire il vostro deficit strutturale torna a crescere, cioè torna fino al 2,4% del 2019. Signori, che cosa volete fare? Ecco, e la mia preoccupazione è che in tutto questo voi sentirete una campagna elettorale in cui, sapendo che nessuno di loro deve governare, avranno la parola libera per dire ognuno quello che vuole. Renzi chiede 5 anni di deficit al 2,9%, cioè dice ogni anno c'è bisogno di 50 miliardi di euro di risorse in deficit in più per l'Italia. Uno, questo è Renzi, e dice back to Maastricht. Salvini, avendo qualcuno che gli ha spiegato che non bisogna dire back to Maastricht perché Maastricht è più vincolante sul debito pubblico del fiscal compact, infatti dice no, la proposta della Lega sia ben chiaro, così formalizzata. Noi chiediamo, se fosse un governo da noi sostenuto, deve chiedere di riformulare tutti i trattati da Maastricht in poi di finanza pubblica, non ci riconosciamo in alcuno di loro, o in alternativa ci deve essere concesso una trattativa su un tempo medio di uscita dall'euro in maniera contrattata e bilanciata. E la lezione un po' della Catalogna è arrivata. Però questa è la posizione ufficiale della Lega. Berlusconi, furbo, non lo sentirete mai parlare di un trattato europeo da distruggere, però c'ha questa valuta parallela che serve a tenere aperto il ponte con la Lega. Non mi resta che dire che se sperate che a difendere i vincoli europei sia i 5 Stelle, vi faccio i miei saluti e i miei auguri, però queste sono le posizioni di finanza pubblica di un governo in cui, caro Mario, recederà, avremo i problemi europei che avremo in Germania un liberale alle finanze che ci farà rimpiangere come un'orsolina solidale Schäuble. Io dico auguri Italia, perché io non voglio sembrare critico, non so come la pensi tu, Mario. Allora, io credo che oramai, visto che siamo in campagna elettorale, visto che oramai ancora, certo, sì, ma perché sai, non ci fanno votare, come dice qualcuno, però alla fine è sempre carnevale, soprattutto adesso che abbiamo un sistema elettorale che permette a chiunque di sentirsi libero, certo, ex ante ed ex post, poi arriva la quaresima. Io alcune cose in ordine sparso, stamattina leggiamo sui giornali che c'è, come dire, un emendamento di alcune forze politiche che punta ad estendere il famoso Golden Power, no, per proteggere le nostre prestigiose aziende strategiche, anche ovviamente al settore finanziario, quindi credito e assicurazioni. In particolare, voi sapete, Generali rischia di essere una preda europea, e questo è abbastanza oggettivo, e quindi c'è stato questo emendamento che parte prende le mosse alle premesse dal fatto che i servizi segreti ci informano che il risparmio italiano è concupito dall'estero, no? E quindi bisogna tutelarlo. Girano voci anche tra intellettuali, professori, amici del PD per Unicredit. Vi dico che Saccomanni è stato consigliato per dire ci vuole un presidente di garanzia patriottica, esatto. Quindi questo serve, mentre diciamo la versione attuale del Golden Power, che è focalizzata e centrata sulle comunicazioni, serve per avere una bella fiche negoziale da parte del PD nei confronti di Mediaset e del proprietario di Mediaset. Vedete che queste cose io ve le dico, dopodiché per il politicamente corretto rivolgetevi altrove. Ma hai ragione, no? Esatto. Anche io l'ho ricordato ieri sera, perché ricordo che l'interferenza politica ha fatto ballare il titolo Telecom, sospendendolo sia al rialzo che al ribasso, poi, proprio ieri. Poi togliamo la contendibilità potenziale. Telecom sta già pagando, certo, questo dazio generale. Se queste sono le premesse, andrà a pagarlo. Ovviamente. E siccome noi in Italia abbiamo, come noto, abbiamo avuto in media alcuni gruppi dirigenti che hanno prodotto valore per gli azionisti, no? E allora è bene che noi proteggiamo da eventuali scorrerie. Alla fine poi si scoprirà che anche le aziende italiane del settore finanziario che sono guidate da non italiani, bisogna metterle sotto tutela. A parte queste, come dire, amabili così, vicende, questa è stata una settimana dove la criticità delle sofferenze bancarie è tornata a rialzare la sua testa. Facciamo un po' un punto, torniamo un attimo a ritroso, poi parleremo più nello specifico delle vicende della commissione parlamentare. Come saprete, la vigilanza della BCE, guidata dalla francese Daniel Nui, ha messo in consultazione un cosiddetto addendum che chiede praticamente alle banche di azzerare il valore delle sofferenze su crediti non garantiti entro 2 anni e su crediti assistiti da garanzia entro 7 anni. Tuttavia, questa non è una imposizione, questa è una struttura che si chiama comply or explain, cioè adeguati o spiega perché non ti adegui. Quindi devi dare una valutazione circostanziata che la vigilanza può approvare o respingere. Ora, in Italia c'è stata una levata di scudi unanime che è partita dall'ABI, Confindustria, la politica, tutto lo schieramento politico, intellettuali, editorialisti, badanti e quant'altro, perché questa vicenda rischia praticamente di distruggere il nostro povero paese. Cosa è successo? Che il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha commissionato una valutazione giuridica al servizio legale del Parlamento europeo medesimo per capire se la NUI ha esorbitato dalle sue funzioni. Il servizio legale che però... E tuttavia questo documento ha detto che sì, la vigilanza ha esorbitato perché avrebbe usurpato la funzione del legislatore, sia quella dell'esecutivo, la commissione, che quella del legislativo, e quindi bisogna trovare un modo per... Ora, la NUI è caduta dal pero, perché chiaramente, come dire, è difficile pensare... A me... Questo documento legale, una cosa, nessuno vi ha scritto e vi ha detto sui giornali italiani che questo documento legale è firmato da due italiani. Io dicevo, cioè, però. È firmato da due italiani. Ora, massimo rispetto per la professionalità di questi legali italiani, ma pensate cosa sarebbe successo se un pronunciamento pro Germania avesse avuto il parere legale firmato da due giuristi tedeschi. Che c'entra? In questo momento noi avremmo la gente per strada in Italia. I tedeschi fanno gli interessi loro, gli italiani fanno gli interessi dell'Europa. Comunque. Ah beh, certamente. Comunque sia, cosa è successo nel mezzo, prima che qualcuno tra voi stanco cambi canale? Che il Credito Valtellinese ha annunciato... Ecco. Una feroce ricapitalizzazione, cosiddetta iperdilutiva, per 700 milioni, se ricordo pari bene. Pari a quante volte? Il pari a tre volte la capitalizzazione di borsa. Cioè, non so se mi spiego. E numerose altre banche, che pure stanno presentando buoni conti, si sono presentate con i loro vertici a dire: ah, ma guardate che va tutto bene, noi non abbiamo alcun problema, però in caso acceleriamo il processo di smaltimento delle sofferenze. Quindi... che cosa dire di questa vicenda? Che il problema delle sofferenze in questo paese resta. Possiamo anche disinnescare la minaccia della NUI e quant'altro, però le sofferenze vanno ridotte. Minacce che io non vedo, perché sette anni per quelli assistiti da garanzia, io non vedo in cosa consiste la minaccia. L'Italia ufficiale dice che grazie a Renzi il processo civile telematico dura 6 anni. Quindi, stiamo dentro. Poi, ma anche il presidente Abi, che ha detto che l'Italia sta facendo progressi incredibili nell'abbattimento dello stock di sofferenze, io non capisco a questo punto perché, diciamo... prendere le baionette e correre sul Piave, però queste cose mi sfuggono. Alla fine questa è una vicenda abbastanza triste, perché come ha detto il ministro Padoan all'Eurogruppo, lui è stato l'unico a sollevare il problema dell'eventuale competenze esorbitanti da parte della vigilanza della Banca Centrale Europea, quindi a me viene da ridere perché non l'ha detto il ministro portoghese, non l'ha detto il ministro greco, non l'ha detto il ministro spagnolo, l'ha detto solo il ministro italiano. Quindi nel nostro paese si conferma che siamo diversi, non è solo la mia banca è differente, ma anche il mio paese è differente. Quindi mi pare che la situazione continui ad essere grave, non particolarmente seria però. Va bene, torniamo tra un minuto. Della belva. Ed eccoci qui tornati in studio, compare dei conti della belva, Mario, Carlo Alberto, che quando è presentato lui non si è neanche presentato, ha iniziato a parlare con gli amici, con gli amici si fa così, come se lo vedessero entrare accademico nel salotto. No, sono venuto in macchina, le macchine si posteggiano soltanto in spazi preconfigurati, mentre le moto le metti dovunque. Ma scusa, tu non sei uno sostenitore di smart city, car sharing? Trovarlo il car sharing. Esatto. Perché stamattina che non si riuscì a capire, io non ho trovato niente anch'io. Ma cosa c'era stamattina? Ma io qualcosa ho trovato. Vabbè. Comunque, eventi naturalmente che possono riguardare solo i milanesi, e noi abbiamo invece un ascolto nazionale per i compari che mi tengono compagnia. Allora, ragazzi, questa settimana il lavoro della commissione inchiesta sulle banche è entrato nel vivo, ed è entrato nel vivo offrendo a coloro che ritengono interessante e necessario, anzi imprescindibile, visto i temi che abbiamo visto, certo, prima su quello, ragazzi, che continua a venire Creval, tutela del risparmio, articolo 46, vogliamo parlarne. Tajani, devo dire, Mario, io ho apprezzato, perché io mi aspettavo che giudicassi le parole di Tajani, perché Tajani poi ha fatto annunci sui giornali italiani e europei dicendo basta i tecnocrati, cioè lui, l'autorità indipendente, sono meglio quelli di casa nostra dei tecnocrati. Però detto questo, sono vicende, come si vede, che hanno ancora un peso, anche perché sul totale degli impieghi alle imprese il segno resta ancora meno, capito, meno, e la cifra che da 2 anni consente all'ABI di dire non è vero, il totale delle banche stanno facendo tutto il necessario, perché c'è segno più sugli impieghi, perché la componente è quella delle famiglie, e la componente delle famiglie però a far andare il segno più sono surroghe, quindi sono risorse in più date. Però detto tutto questo, la settimana è stata abbastanza incandescente, perché le audizioni incrociate di Apponi e Barbagallo, cioè Consob e Banca d'Italia, insomma, hanno dato versione dei fatti che dal 2008 al 2015 su alcune delle banche finite gambe all'aria, le due venete soprattutto, hanno dato versioni diverse. Il tutto poi è finito evitando italianamente un incrocio diretto e con una specie di convergenza istituzionale, per la quale però Consob prendeva atto che nell'ordinamento italiano, che secondo me va cambiato, ma lo dico dal 2005 questo, quindi, su alcune di queste materie, per esempio i prezzi delle azioni non quotate, non c'è un obbligo di piena collaborazione tra le due autorità. Banca d'Italia sostiene del resto che i poteri che ha, sa, quando il CDA adotta le sue delibere, eccetera, eccetera, però è uscito fuori che osservazioni nelle ispezioni c'erano state. Come questo è andato sui giornali, la cosa che sui giornali, secondo me, anche stamattina Repubblica, ne parlavamo prima, coglie soprattutto l'aspetto politico. Ci sarebbe questa preoccupazione di Matteo Renzi per un ruolo futuro politico dei Draghi. Noi non parliamo di questo, ci interessa capire invece le opinioni e i criteri di lettura di questo che sta emergendo. Anche perché la domanda che faccio io è, a questo punto iniziamo a immaginare, cari ospiti che adesso vi presento, e cari compari, quali saranno gli esiti di questa commissione? Perché una volta che deve fermare i suoi lavori allo stop, cioè allo scioglimento delle Camere, perché non viene considerata l'attività di una commissione d'inchiesta come ordinaria amministrazione, quindi non si procede come invece per ordinaria amministrazione le Camere restano in carica fino a che non c'è la programmazione dei nuovi eletti. E come finiranno? Perché, per esempio, a me non dispiacerebbe una qualche considerazione su ciò che emerge sull'architettura regolamentare, e qui mi fermo semplicemente dicendo, io sostengo che da anni c'era l'evidente necessità di formalizzare i rapporti tra Consob e Banca d'Italia. Ci sono diversi ordinamenti che ci danno buone lezioni. Io sono un sostenitore del modello tedesco. Il modello tedesco vede BaFin, cioè la loro Consob, e la Bundesbank, avere tre diversi livelli di cooperazione che sono identificati per legge. Un primo livello è banale ma è importante, cioè l'accesso diretto garantito a BaFin a tutto il database della banca. Come si vede, in questa settimana è emerso esattamente questa roba qua che in Italia manca. Il secondo è quello della partecipazione prevista. Tutte le volte che negli organi operativi e tecnici di BaFin si parla di questioni bancarie, c'è la presenza di un delegato della Bundesbank. Non ha diritto di voto, ma si realizza un confronto immediato diretto. Terzo livello, formale, c'è un organo vero e proprio formale a cui partecipa anche il governo, in cui si prendono le decisioni quando la vigilanza prudenziale ha all'ordine del giorno da diversi intermediari finanziari argomenti che hanno a che vedere con la vigilanza che in Germania è incrociata, perché ci sono materie, per esempio le questioni che riguardano la liquidità appartengono a BaFin e le emissioni di titoli, altre che attengono invece alla Bundesbank come ratios patrimoniali. Però in questo organo, dove c'è anche il governo, ma perché questo in Italia non si potrebbe fare, ma in Germania la BaFin ricade nella responsabilità del Ministero delle Finanze, è meno indipendente di quanto non sia la Consob in Italia. Però, come vedete, questi tre diversi livelli, io già nel 2005 dissi, ma perché non facciamo così? Perché bisogna preservare la cipigliosa autonomia di entrambi. Però poi succede quello che abbiamo visto questa settimana. Può essere che il mio sia un errore pensare così, ma intanto vediamo cosa ne pensano i nostri due ospiti. Il primo è, ha dedicato in questi giorni commenti molto acuti e molto diffusi e approfonditi alle audizioni, il professor Luca Rezzogovesi, l'abbiamo già avuto ospite, lo ringraziamo per rendersi disponibile anche questa stamattina tra noi, insegna finanza aziendale all'Università di Trento. Buongiorno professore. Buongiorno Oscar a tutti gli ascoltatori. E per il Cotè, come ci vedono da fuori e se è del tutto sbagliato la cosa che ho suggerito prima, Udo Gumpel, che è corrispondente dall'Italia per la rete televisiva tedesca NTV. Buongiorno Udo, grazie di essere con noi. Buongiorno a te, buongiorno agli altri ospiti. Erzegovesi, a me piace il tono per cui lei separa nei suoi commenti che sono sul suo blog, separa per così dire la fuffa che interessa molto i giornalisti e va direttamente alle questioni tecniche. Il tono che lei ha avuto è un tono per così dire in cui, mi corregga se sbaglio, apprezza più di quanto non avvenga nel mainstream il modo in cui Banca d'Italia sta rispondendo alle domande. In particolare lei dice su questa questione dei prezzi delle popolari fissati dai CDA e che non avevano mercato, insomma attenzione a credere che davvero poi il fair value possa valere più del fatto che il regolatore non può che a un certo punto prendere atto di quello che deliberano i consigli. Perché la vede così? Qui bisogna vedere i poteri della vigilanza, che cosa consentono di fare. Direi che l'attività di raccolta di informazioni e di messa a fuoco del problema, lo si è anche documentato nell'audizione, è stata fatta in maniera estensiva ed adeguata. Quindi il problema della sopravvalutazione, perché il problema è quello che ha portato poi a fare delle emissioni di azioni a prezzi chiaramente superiori rispetto ad un valore sostenibile. Il problema è che l'assemblea è sovrana nel determinare un prezzo che fondamentalmente, in assenza di un mercato di borsa, regola i valori a cui entrano i soci con gli aumenti di capitale acquistando le azioni sul secondario ed escono i soci attuali. Quindi se questo prezzo è sopravvalutato il sistema salta e si verificano poi delle corse al disinvestimento nelle quali si hanno quelle situazioni deprecabili in cui alcuni soci scavalcano, vengono favoriti rispetto agli altri, che purtroppo abbiamo osservato nel caso delle vendite. La Banca d'Italia aveva chiaro questo problema, era intervenuta chiedendo di usare uno strumento procedurale, metodologico più rigoroso e quindi il coinvolgimento di un esperto esterno, ma all'epoca dei fatti questo rimedio era già stato portato, ma abbiamo visto non è bastato, perché anche diciamo la autorevolezza che può essere riconosciuta a un esperto esterno non va ad incidere sul fatto che la decisione ultima compete al consiglio di amministrazione, che propone un certo prezzo, l'assemblea che lo approva. Adesso si potrebbe approfondire dal punto di vista legale, ma non penso che l'esperto indipendente possa forzare una valutazione ancorata a dei parametri di mercato di borsa nel momento in cui l'azione non è quotata, e il punto è la sostenibilità di quel prezzo. Ecco, l'ultima cosa che aggiungo su questo tema sostanziale: la Consob aveva piena consapevolezza, l'ha anche detto il dottor Apponi durante l'audizione, ed era un problema generalizzato, cioè questa cosa la si può dire di tutte le azioni di banche non quotate, popolari e non, anche ad esempio banche in cui azionariato hanno un peso importante, le fondazioni, alcune delle quali poi sono andate male. Per cui il mio punto è fondamentalmente: gli strumenti che la vigilanza poteva mettere in campo per rispondere a questo fenomeno, che si è presentato in uno stadio di maturazione della crisi già molto avanzato, sì, forse quando l'aumento di capitale è stato fatto non si era ancora accorto che eravamo oltre il punto di non ritorno, il punto di svolta, e a questo punto la questione era soprattutto preparare un approdo di una situazione che era diventata fragile, perché questo meccanismo in cui fondamentalmente il mercato è assicurato dall'equilibrio tra soci che entrano e soci che escono nel momento in cui salta crea una situazione tipo schema Ponzi, tipo schema piramidale, perché la liquidità dell'azione è fondamentalmente assicurata da questo, e a quel punto si deve passare a delle soluzioni per una situazione di crisi. Cioè il concetto della trasparenza diventa collaterale e non incidente su una sostanza grave del problema. No, io la cosa che mi colpisce è che lei dice questo problema si acuisce al punto tale da non reggere più quando si arriva a una fase avanzata della questione, però anche gli altri dati del problema prima che arrivassero in fase avanzata insieme a questo componevano un quadro che secondo me agli occhi del regolatore, per quello che oramai iniziamo a capire in dettaglio dalle ispezioni fatte negli anni precedenti, a me sembra che quelle dovevano essere preoccupazioni che dovevano indurre ad altre scelte. Carlo Alberto, era un tuo collega a firmare come sì, ma in effetti io devo apprezzare il contributo liberale che fa Luca dicendo tutte le assemblee sono libere di stabilire il prezzo, però devo chiedere Luca, scusami, allora se sono libere di stabilire il prezzo però devo prendere la responsabilità poi sulle perdite di quella decisione. E invece cosa facciamo? Diamo autonomia alle assemblee di fissare i valori dei loro attivi, gli facciamo emettere azioni o obbligazioni subordinate ordinarie che afferiscono quegli attivi, dopodiché invochiamo il potere salvifico dello Stato, cosa che è successa, perché poverini non possiamo lasciarli soli. No, mi dispiace, cioè delle due l'una, o piena responsabilità, e io sono d'accordo con te, nessun problema, però bail-in feroce. Oppure, mi dispiace, ma il regolatore deve metterci il naso e interferire. Se c'è un implicito bailout, che poi è diventato esplicito nel caso delle due venete, allora io purtroppo non ti seguo più, anche se mi dispiace, perché invece vorrei seguire il tuo ragionamento, Luca. Allora, noi torniamo tra un minuto. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, le Conti della Belva. Senza contare che se poi andiamo a vedere le emissioni obbligazionarie, insomma, io ho letto in questa settimana colleghi scrivere: ma Banca d'Italia e Consob non erano attenuti. Dimenticano che fin da il 2014 pochi giornalisti, non troppo supini e proni, diciamo così, alle tesi ufficiali, hanno pubblicato, ripubblicato, menzionato i Q&A della Consob, in cui si richiamava il principio alla domanda: le subordinate bancarie devono andare al cliente retail? E la risposta era no. Documenti che poi sono spariti dal sito della Consob quando abbiamo iniziato a citarli troppo sistematicamente, ma quei documenti facevano parte dei Q&A ufficiali in vista dell'entrata, del recepimento, dell'entrata in vigore della direttiva BRRD, che fu poi ritardata perché arrivò alla fine in extremis del 2015 con il governo Renzi, ma c'erano già alla fine del 2013 e all'inizio del 2014, come c'erano in documenti dell'ABI e della Banca d'Italia. Quindi questa storia per la quale nessuno doveva intervenire nelle emissioni subordinate riservate alla clientela retail, cosa che è andata avanti nel 2013, nel 2014 fino al 2015, ecco, è una cosa che a gente come me, umile, in brattacarte, mi fa venire un po' di brividi. Udo, io ti chiedo due cose. Primo, la cosa non credo che all'estero abbia molto rilievo nell'informazione, però ti chiedo che rilievo può avere questa cosa in cui i regolatori italiani, insomma, e la politica, dopo la vicenda recentissima della conferma di Visco, che tra virgolette figura, permettimi la semplificazione, stiamo facendo anche con questa autolettura che poi sappiamo non andrà da nessuna parte, visto che la commissione si interromperà. Ma secondo, anche il paragone che io faccio al 2005 con l'architettura tra regolatori tedeschi ha un fondamento oppure no, secondo te? Ma sì, certo che è un fondamento, perché in realtà dal nord verso sud tutta l'Europa ha tentato di unificare e di portare in un unico ente tutto il sistema dei controlli. È partito dai paesi scandinavi, che spesso sono un po' avanti. Poi nel 2002 è arrivato anche in Germania di unificare tutti il sistema dei controlli sulle banche, sulle attività finanziarie, sulla borsa, sulla vendita di titoli, sul retail. Tutto questo infatti è stato concentrato in questo organo di BaFin, E loro hanno rafforzato, considerate che il 2002 era anche un periodo che c'era una prima piccola crisi dopo il 9-11, dopo l'11 settembre, postistica, un piccolo crollo del 40-50%, allora l'opinione pubblica sentiva assolutamente il bisogno che un'autorità indipendente, sì, nominato dal governo tedesco, però anche autonomo per il suo finanziamento, perché non dipende dal bilancio dello Stato, non viene finanziato direttamente dal governo, che un'autorità, questa BaFin, avesse il controllo anche come autorità giudiziaria. Perciò sono state anche modificate alcune leggi che obbligano oggi i funzionari, gli ispettori del BaFin, che sarebbe la Super Consob in pratica, in Germania, perché è responsabile di tutti i controlli di tutto il settore finanziario, FA e per finanze, no? Di sporgere immediatamente denuncia all'autorità della giustizia e aprire immediatamente la collaborazione con le procure della Repubblica appena loro sentono soltanto l'odore della truffa. Questo è stato molto importante per mettere al riparo il retail, il piccolo cliente, da queste forme di truffa che si sono perpetuate. Pensiamo anche agli Tango Bonds e queste cose così, che naturalmente vendevano anche le banche in Germania. Non è che adesso non abbiamo i santi in paradiso, perché ricordiamo la Deutsche Bank e le sue pratiche di vendere. Però la Deutsche Bank vendeva questi diciamo pacchi, come si dice a Roma, non li vendevano al retail gran parte, ma soltanto ai comuni. Anche in Germania avevamo avuto stessa situazione, come il comune di Milano, altri comuni che hanno partecipato a questa attività. E naturalmente, questo bisogna anche fare chiarezza, anche un ente di controllo così diciamo forte, così unificato, non ha protetto la Germania e le banche tedesche dal crollo del 2007-2008. Verissimo, no? ma almeno anche questo non era sufficiente. Bisogna anche dire che quando uno truffa veramente in grande stile, come esatto, era la Hypo Real Estate in Germania, che ha causato da solo una banca 130 miliardi di buco. Comunque il regolatore arriva tardi, questo non il c'è regolatore, però almeno nazionalizzate in una notte, esatto. Schäuble oggi vende gli asset, e perciò l'abbassamento del debito pubblico tedesco, dovuto anche al fatto che il governo tedesco, certo, ha reagito nel momento che la catastrofe era già successo, però ha nazionalizzato tutto e oggigiorno obblighi di centralizzazione del database e scambi obbligati tra autorità evitano questa penosa cosa italiana che poi fa le guerre sulle persone, Renzo Visco, questo è stato, poi lascia tutto come ridicolmente. Rimangono, le persone vengono cambiate. Torniamo dopo Giornale Radio. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Ed eccoci tornati qui con i nostri compagni studio, Mario e Carlo Alberto. È rimasto con noi ancora il professor Luca Zigovesi, perché Carlo Alberto, sintesi estrema, ridigli quello che dici, perché dobbiamo dare risposta. No, perché nel suo bellissimo blog, che a tutti raccomando, panefinanza.it, scrive appunto, ma le autorità, anche quando vedono chiaramente il disastro in arrivo delle banche, non si precipitano a premere il bottone dell'emergenza, e non lo fanno prima di aver messo in pista una soluzione che nel 99% dei casi è un bailout, così scrive Luca. E ha ragione a scriverlo, per carità. Però il senso del dire, allora, in che logica possiamo concedere alle banche il diritto di stabilire il valore delle proprie azioni senza riscontro? Professore Zigovesi. Allora, aveva colto perfettamente il punto Oscar prima, dicendo che benvenga questa commissione, perché mette a tema il ridisegno dell'architettura, dei controlli e della regolamentazione sulla finanza. Per cui occorre rafforzare un presidio di controllo preventivo delle condotte che nel Regno Unito è stato affidato alla Financial Conduct Authority, che è distinta dalla struttura di vigilanza. Sì. In Italia qualcosa fa l'antitrust con queste competenze, per il resto queste competenze sono distribuite tra Banca d'Italia e Consob. È una competenza distinta proprio perché le altre due leve, che sono la vigilanza sulla fisiologia, quindi processi, buone pratiche, e gli interventi sulla patologia, la gestione delle crisi per certi aspetti sono alternativi al controllo preventivo in un'ottica di tutela del consumatore. È un discorso complesso, la teoria non ci dà delle formule che sicuramente sono efficaci, dobbiamo passare da un vecchio a un nuovo che ancora non conosciamo. La Commissione ci sta dando tante evidenze di prima mano e anche poi una partecipazione, diciamo, emotiva, che secondo me potrebbe sbloccare. E del resto gli stessi auditi, sia Barbagallo che Apponi, hanno mostrato un'apertura anche a mettere in discussione quella che è l'attuale divisione del lavoro tra Banca d'Italia e Consob. Infatti io dirò che quello che mi auguro, al di là di tutto, io sono molto meno interessato di tanti miei colleghi alle vicende personali oramai, è che si riesca, malgrado i tempi, ad avere un documento di indirizzo allo stop dei lavori per il futuro, esattamente su questo, perché secondo me è la cosa più utile, non so, Carlo. Sì, Alberto, perché almeno cambiamo le nostre regole e convergiamo, come diceva prima Udo, a un modello europeo più trasparente. Non è possibile pensare di frammentare le regole così tanto in Europa, altrimenti il principio della libera circolazione dei capitali viene violato brutalmente. Molto bene, allora intanto grazie al professor Luca Erzegovesi, perché glielo dovevamo, perché noi una volta lo abbiamo trattato malissimo, ma ci teniamo. No, ma le spalle larghe, ragazzi. No, ma dai. Non è che le spalle larghe. È uno dei pochi che ci dà pane per la testa e tutti i giorni. Esatto. E che, a differenza dei tuoi colleghi, Carlo Alberto firma poche perizie. Per così. Scusate se questo mi dispiace, Erzegovesi, lei non lo pensa, ma io invece sfoto sempre Carlo Alberto, perché Carlo Alberto, insomma, da quella parte dove sta lui a insegnare, firmavano molte perizie. Era la cosa che, del resto, ma questo non è mica un male, però firmavano molte perizie. Chi di perizie, no, ma non mi far dire chi firma perizie, niente, battuta cancellata. No, battuta tu, è meglio che la cancelli. Io invece posso dire che secondo me la professione che è esercitata diversamente, però secondo me ha un basso tasso di partecipazione rispetto al numero di cattedratici in Italia su queste vostre materie, perché tanti hanno firmato perizie. Non c'è niente di male a firmare perizie, io non sto dicendo questo, cari ascoltatori, cerchiamo di non essere equivoci. Però, a fare quel mestiere bisogna essere molto titolari di idee chiare. A volte non sono i modelli che ti danno idee inequivocabili, in questo apprezzo quello che dice il professor Erzegovesi, ma nei rapporti poi con manager bancari importanti e imponenti bisogna talvolta sapersi preservare, esattamente come le assemblee delle popolari non sono le assemblee ideali dell'Atene del V secolo. Luoghi, definizione rigorosissima del valore delle azioni, dove scorreva a fiume il prosecco, caro Oscar. Allora, sentiamo come la pensa Valerio da Bologna. Valerio. Buongiorno. Buongiorno. Intanto il vostro analisi è molto interessante. Secondo me il contributo che io potrei dare è puntare di più anche sul fatto che questi titoli sono titoli liquidi e quindi alla fine il vero problema, secondo me, non è la valutazione del titolo che poi lo rendeva non scambiabile perché era quasi sempre sopravvalutato e quindi non si riusciva a incrociare la domanda e l'offerta, ma se le normative MiFID o eventuali altri fatti rilevanti sono stati effettivamente, direi di no, applicati correttamente per far diventare soci appunto delle popolari, ma in generale di tutte le società. Però, hanno titoli liquidi e quindi. Però poi voglio dire una cosa a cui si arriva tardi e male, solo con la popolare di Bari in realtà, cioè una piattaforma per rendere meno opaco il libro soci entrate e uscite, non ci voleva una grande intelligenza per prevederlo prima, scusi. Ma certo, allora il criterio cronologico doveva essere quello che conduceva il tutto, quindi la cronologia della domanda. Ho capito, ma siccome... Esatto. Ma certo, questo lo sappiamo che non si è verificato. Ma però il problema è la risposta a quello è banale, una banale piattaforma che registra le cose e le tracce, cioè proprio banalissimo. Non so come dire, non stiamo parlando di fare la riforma alla tedesca qua, stiamo parlando di una roba banale. Ci si è arrivato tardi, sì, e male. Però noi addirittura non siamo a questo livello, noi addirittura abbiamo fatto diventare soci, virgolette, forzatamente coloro i quali quelli che chiedevano un impiego, necessitavano di un mutuo, esatto. Oppure i vecchietti di 80 anni che manco sapevano che cosa firmavano, e questo si estenderebbe non solamente, quindi la rigorosa applicazione della MiFID è qui che secondo me la Consob all'erbo scoperto. Oh, bravo, bravo. Ovazione per il nostro. Beh, più che l'erbo scoperto, abbiamo qualcos'altro di scoperto noi risparmiatori su questo. Non si usano questi termini, professore. No, quali termini? Cioè, allusioni. La cattiveria è nella tua mente, caro. Ma che è nella mia mente? Sei un allusivo. Ma no, che devo fare? Cioè, devo fare. Ma tu fai lezioni anche alle studentesse, mica potrai alle ragazze fare questo. Ma io non alludo lì, cioè io invece. Ah, fai di peggio? Hai capito? E quante cose si scoprono in questa accademia bocconiana? Vabbè. Va bene. Antonio da Milano, invece, che pensa, Antonio? Buongiorno. Allora, per essere molto pratici, mi sono posto una domanda. Normalmente un'associazione, una società di qualsiasi genere, un amministratore, e per me Visco sotto un certo punto di vista lo è, ha degli obiettivi. Dal mio punto di vista, da quello che sento, da quello che posso vedere, per quello che conta, non ha fatto un buon lavoro. E l'hanno confermato. Mi sono posto una domanda. Forse gli obiettivi dichiarati non sono gli obiettivi reali. Nel senso che lui doveva fare un certo tipo di lavoro... Non l'ha fatto, l'hanno confermato, vuol dire che aveva altri obiettivi, non quelli di tutelare e di gestire in modo che non ci fossero problemi. Questo è uno. La seconda cosa è una parola che è in disuso, non è un fatto concreto, però mi piacerebbe sapere il vostro parere, è l'etica. Non so dove sia andata a finire in tutto questo discorso. E l'ultima cosa che vi voglio è un ringraziamento, perché mi avete fatto migliorare il mio senso critico. Quindi vi ringrazio. Buona giornata. Ah, grazie a lei. Che meraviglia, grazie. Di solito ci insultano, Oscar. Passano di quei vaffa. Dico bene. Ecco, schiavi della Germania. Se appena adesso abbiamo invitato Udo, che si è giustamente riferito. No, però, aspetta. No, ecco. Un ascoltatore ha chiesto se si poteva chiedere a Udo dei derivati di Deutsche Bank. Ora io direi all'ascoltatore: prima lui impari come si scrive Deutsche Bank e poi rispondiamo. Però nel caso specifico, un secondo dopo che è arrivato questo messaggio, Udo ha parlato delle pratiche truffaldine di Deutsche Bank nel vendere derivati a enti locali tedeschi. Quindi io spero che il nostro ascoltatore, con la buona fede che lo caratterizza, potrà apprezzare il fatto che Udo Gumpel, no, di solito, non voi, è l'avvocato difensore del suo paese. Questa radio, il cui ringrazio sempre il pluralismo finché durerà e bontà loro che ce lo concedono, però questa radio è inondata di Sebastiano Barisoni, che un giorno sì e l'altro no, non fa altro che dire i derivati, Levertree, Deutsche Bank, i tedeschi. Quindi, cari miei, il pluralismo pretende che noi sappiamo che la stragrande maggioranza degli ascoltatori sente quella canzone lì, se legge i giornali, legge quelle cose lì, e noi viviamo grazie all'articolo 21 della Costituzione, però tentiamo di spiegarvi da anni. Quando ci avete sentito criticare in anni non sospetti queste cose, avete visto che poi qualche straccetto di ragione poi lo avevamo. Io volevo commentare, siccome il messaggio di Stefano che è appena arrivato ora, che dice: siete solo degli studiosi del cazzo. Stefano ha una pic che ha gli occhiali. Io vorrei dire a Stefano che Pol Pot, la gente con gli occhiali, praticamente li metteva nelle fosse comuni. Attenzione a essere studiosi o anche solo ad apparirlo, perché in alcuni casi uno può essere miope e sfigato perché manco è studioso. Bene, Giulio La Spezia, cambiamo argomento. Giulio La Spezia, però ci chiama, mi dicono sulle tasse, Giulio. Sì, esattamente, perché io la sento ogni mattino e la giudico un po' un paladino dei consumatori. Grazie. E le devo raccontare una storia che non si sa se ridere o piangere. Inizia bene la storia perché io ricevo una lettera dall'Agenzia delle Entrate dove mi dicono che ho pagato più tasse nel 2014 e mi restituiscono 100 euro. Io dico: che bello, ma cosa succede? Anche in Italia succedono queste cose. Dopodiché continuo a leggere la lettera, mi dicono: però deve venire il nostro ufficio a dimostrare che lei ha maturato questo diritto. Giuro, così. Ma cos'è, una lotteria? Allora, loro hanno visto, passato al setaccio la mia dichiarazione, hanno trovato questo versamento in più. Però non si fidano, evidentemente c'è un altro ufficio, anche qui le forze di lavoro, che va a vedere quell'ufficio lì, ha fatto i conti bene. Io dovrei di nuovo portare tutta la documentazione, che peraltro non trovo perché nel 2014 ho trasloccato, per maturare questi 100 euro. No, ma è fantastico, che le riconoscono per il principio di cautela, si chiama proprio così questa pratica, il principio di cautela della PA. Loro si autotutelano da sue eventuali richieste e le riconoscono un diritto. Quanto all'esercizio, altra gestione, quello che riguarda la cassa, col cazzo che gli hai dato. Questo è meraviglioso. È la giarrettiera dei 100 euro, così gliel'hanno fatta vedere, però in quanto a ottenerla. Giulio, solidarietà piena. Purtroppo noi abbiamo riso, ma non si offenda perché non stiamo ridendo di lei. Noi ridiamo amaramente in quanto sudditi. Gli sudditi possono ridere solo al gemere delle catene, che è l'unico spettacolo teatrale che lo Stato riserva loro. Questo è il punto. Quindi noi immaginiamo che siano orchestre, ma è la catena che è sempre più pesante abbiamo intorno al collo e ai nostri piedi. Quando poi dicono che loro stanno tagliando le tasse, a me scappa da ridere oramai in una maniera pazzesca. Grazie a Giulio, torniamo tra un minuto. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Allora, novità, cari ascoltatori, compagni dei conti della belva, Oscar, Mario e Carlo Alberto. Ma la novità di cui parliamo in questo quarto d'ora è la novità che emergono ogni giorno nella proteiforme attività di trasformazione in un mostro sempre più zannuto della legge di bilancio per quello che riguarda la parte fiscale. Partita con 7,1 miliardi di maggiori entrate, cioè di aggravi, come è noto le tasse scendono in Italia, io rido, però la cosa sta prendendo una piega sempre più minacciosa. Compaiono le tasse di scopo come i 600 milioni di quella sul fumo, servono però in realtà a mettere mezzo miliardo nelle tasche dei dipendenti della sanità. Prende sempre più forma, caro Carlo Alberto, la web tax sul 6% del fatturato, caro Carlo Alberto. No, parole. Non hai parole. È saltata l'IRI e questo ve lo abbiamo già detto, e solo di lì sono 2 miliardi pluriennali, e le imprese che ci hanno creduto e si erano preparate alla sua entrata in vigore dal 1 gennaio se la prendono due volte in tasca, come ovvio. Questo chiediamo al nostro ospite come sta cambiando, perché io stesso mi perdo su ogni giorno l'odiosa vessazione dello spesometro, spacciata per cosa antielusione e fatta solo per accrescere il gettito, perché sono 900 milioni da questo appostati dopo la figura di merda che l'amministrazione tributaria ha fatto in tutto questo 2017 con violazioni sistematiche del diritto alla privacy e manifestazioni plateali della sua inefficienza nel gestire i dati, questi che poi vogliono mettere la golden power per garantire la strategicità dei dati l'hanno detto i servizi segreti. Pazzesco. Dopodiché, novità anche di sentenze. Di ieri la notizia di questa sentenza che mi lascia senza parole, perché fino a che in questo paese noi avremo sentenze come quella della Corte di Cassazione che ho lanciato io per Twitter, noi saremmo considerati schiavi. Questa sentenza, per dirla in due parole, respinge sentenze favorevoli a una SPA contribuente che aveva impugnato la tesi dell'amministrazione tributaria. La tesi dell'amministrazione tributaria è: cara impresa, tu hai maturato un credito IVA che considero legittimo, insomma non te l'ho contestato di fatto per nessuna ragione né formale né sostanziale in due annualità, però io a quel punto, di fronte a questo, non te lo accetto in compensazione perché ti ho chiesto accertamenti per altre imposte e per altre annualità rispetto a quello che hai legittimamente maturato in annualità diverse. L'amministrazione dice: col cavolo che ti accetto la compensazione fiscale fino a che io ti accerto su altro. E la commissione tributaria e poi il grado successivo di giudizio davano ragione all'impresa. La Cassazione dice: no, principio di autotutela, lo Stato fa benissimo e può disconoscere l'ammissione alla compensazione del credito fiscale sia pur non avendolo contestato. Allora, queste sono cose da monarchia assoluta e mi dispiace che se ne debbano occupare solo i tecnici del fisco, perché il mio mondo ideale vedrebbe gente in piedi muta che non compie nessun reato di fronte alla sezione della Corte di Cassazione per dire: provate ad attraversare i nostri corpi per uscire. Cioè, non è possibile accettare violazioni così sistematiche degli elementari principi del diritto, della simmetria del rapporto tra contribuente e Stato, e invece è sempre più così. Allora, per illuminarci su dove sta andando lo spesometro e cosa pensa di queste novità effervescenti della legge di bilancio in trasformazione, è con noi, come spesso capita, io di questo lo ringrazio, Antonio Gigliotto, il direttore di Fiscal Focus. Buongiorno, buon sabato Antonio. Buongiorno a te e a chi ci ascolta. Hai già detto un po' e sintetizzato un po' tutto, ma la domanda importante è: dove sta andando? Qui ci vorrebbe un mago, perché praticamente, quindi, se noi tentiamo di interpretare quello che fanno tutti i giorni è assolutamente impossibile. Vengo colpito in modo particolare da una dichiarazione, perché poi ci sono queste cose, no? su stamattina Repubblica, dove il direttore dell'Agenzia delle Entrate fa una dichiarazione, quindi l'ho letta quattro volte per quindi tentare di capire se stavo sognando o era realtà. La rivoluzione del fisco, Ruffini, cancellerò il 7,30 troppe le tasse inutili. I cittadini non faranno più la dichiarazione dei redditi, ecco come sarà il fisco. Allora, di fronte a quello che tu hai anticipato, quando poi leggi queste robe qua, ma dici, ma stiamo scherzando o siamo su, cioè, dov'è che siamo? Su scherza a parte, è una vergogna. Cioè, questo qua mi viene a dire che sostanzialmente, quindi così come ha fatto il 7,30, e poi ti dirò due parole il 7,30, succederà così nei prossimi anni con le dichiarazioni dei redditi, e cioè noi continueremo a mandare milioni di dati che hanno dimostrato, come hai anticipato con lo spesometro, che non sanno utilizzare a spese dei contribuenti, poi loro ti mandano un modello e tu devi pagare un professionista per verificare quello che loro hanno compilato. Ma, cioè, ma ci rendiamo conto? Cioè, questa è una roba veramente vergognosa. Io non capisco veramente come si fa a dire o a dichiarare cose. Ma il problema poi è un altro. Cioè, si pensa di fare questi annunci e la gente là tutta quindi, a crederci. Loro non hanno capito che ormai quando fanno questi annunci ormai, quindi vale sempre più un vecchio proverbio cinese, sempre attuale. Affida il tuo cammello, dice, alla provvidenza di Dio, ma ricordati di legarlo prima ad un altro. Quindi il fatto che loro fanno questi annunci, nessuno ci crede, perché la gente vive del quotidiano. La gente, i professionisti, hanno speso due mesi di tempo all'interno degli studi a inviare milioni di dati con lo spesometro. Oggi veniamo a scoprire che abbiamo scherzato, perché ci stanno già dicendo, complice ovviamente anche le prossime elezioni, che dal prossimo anno si ritorna a quello che era lo spesometro un anno fa. Ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Cioè, questo è quindi lo spesometro. Hai anche detto in anticipo il problema dell'IRI, ma che vergogna pure, che credibilità abbiamo nei confronti che vogliono attirare gli investitori? Ma se la gente scappa, chi viene in Italia? Tu fai un discorso con un cliente, gli prospetti quali sono le possibilità per il 2017, loro a novembre ti dicono che praticamente non se ne parla, perché quello che avevano detto a gennaio se ne riparla a gennaio dell'anno dopo, cioè nel 2018. Cioè, capito? E cioè, cosa vuoi commentare? Ti puoi soltanto incazzare, perché è una roba che io non riesco più a capire. Noi abbiamo anche un quotidiano che riceve praticamente quindi migliaia e migliaia di email quindi da parte dei professionisti e contribuenti, ma è sempre la stessa cosa, cioè la gente non ce la fa più, e non è soltanto, ripeto, un problema di elevata fin troppa tassazione, ma è ormai un sistema così complicato, così ormai quindi pieno di burocrazia, che o si prende veramente quindi una decisione, si cerca di fare le cose fatte bene, altrimenti quindi questi programmi fanno soltanto del male, perché la gente è veramente esasperata. Però ti dirò che nell'intervista stamattina mi ha colpito soprattutto, lo dico con pieno rispetto dei colleghi che la firmano di Repubblica, cioè Fabio Bogo e Sergio Rizzo, e mi ha colpito soprattutto il modo con cui facevano le domande, perché è un modo, caro Sergio e caro Fabio, vi leggo da sempre e sapete che vi stimo davvero, perché vi twitto tante di quelle volte, che è un modo, perdonatemi colleghi di Repubblica e voi due che la firmate, sbagliato. È un modo sbagliato, perché invece di fargli domande su cose concrete che non hanno funzionato, le domande sono perché i nostri ascoltatori non è detto che l'abbiano letto o che comprino Repubblica, domande del tipo: perché non si è mai fatta una campagna pubblicitaria per spiegare che cosa significa evadere? Risposta di Ruffini: vediamoci fra un anno, vi farò vedere io. Oppure sul fatto che lo Stato accumula centinaia di miliardi di somme sul quale avrebbe titolo, e che naturalmente se fosse un bilancio aziendale avrebbe dovuto levare dal bilancio da decenni, tanto per essere chiari, ma invece lo Stato, e questo serve appunto alla propaganda per far capire agli italiani quanto siete evasori, e invece dimostra solo che lo Stato non sa nemmeno tenere elementarmente le sue scritture contabili. Allora, le domande che gli fanno i due colleghi: ma come, il fisco incassa comunque le briciole su 817 miliardi di euro accertati, si prevede di aggredirne al massimo il 10%, assurdo. No, la domanda è: gli 817 miliardi, cari colleghi, perché immagino li abbiate letti i rapporti delle autorità internazionali, due l'anno scorso, che dicono levateci questi 800 miliardi che fate ridere tutto il mondo, e invece i colleghi di Repubblica ci credono e dicono ecco la prova che la colpa è degli italiani. Finché secondo me i colleghi dicono che la colpa è degli italiani, io non so, questa è la risposta alla sua domanda, capisci? È che, ma ascolta, del resto, scusa, quando loro quindi farà l'evasione mi vanno a contabilizzare, ecco perché i dati vanno anche letti e spiegati, perché altrimenti non ci capiamo, no? Se loro mi vanno a contabilizzare tra quindi l'evasione, quindi tra l'ammontare evaso, quel povero disgraziato che ha lavorato, che ha contabilizzato, che ha fatto le fatture, che ha dichiarato, ma che poi alla fine del mese non riesce a versare l'IVA, ma di cosa stiamo parlando? Quello non è un evasore, quello è un povero disgraziato che non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, deve fare delle scelte, se pagare i dipendenti o eventualmente pagare l'IVA, dice preferisco spostare il pagamento dell'IVA, ma non è un evasore. Allora, quegli importi me li mettono quindi nell'ambito dell'evasione. E poi con l'ultima manovra che hanno fatto, che da una parte ti dice che il ravvedimento può durare per tutta la vita, e dall'altra invece quella comunicazione praticamente che avesse obbligatorio nei 6 mesi, dopo 4 mesi che non abbia stato l'IVA, praticamente decadi dalla possibilità di fare il ravvedimento, esatto, di un titolo esecutivo, esatto, e devi pagare il 10% invece del 30% della sanzione che è. Ma cosa stiamo dicendo? Di cosa stiamo parlando? Capito? Queste robe qua, ma dico, ma dai, ma stiamo vendendo ridicoli. Io capisco che bisogna fare queste dichiarazioni, io capisco il ruolo che riveste, capisco che fra qualche mese siamo sotto elezione, però sai, a tutto c'è un po' di... Ci dovrebbe essere, caro Alberto, cosa vuoi dire? Volevo però commentare in maniera seria questa evoluzione della nostra politica fiscale citando una proposta di emendamento che secondo me è centrale per il futuro del paese. La chiamerei defunto 4.0, l'hai vista questa? L'incremento delle agevolazioni fiscali per le spese funebri per opere lapide e cimiteriali e relativa accessoristica fino a 3.500 euro. Quindi, carissimo, la verità è che il governo ci sta facendo chiaramente intendere che la cosa migliore è, come dire, che ce ne andiamo al creatore, si risparmia, capite? Possiamo dedurre, come per la robotica, per il software dell'intelligenza artificiale, le opere lapide e relativa accessoristica funebre può essere dedotta. È la morte 4.0. Esatto, è il caro estinto della nuova generazione. Va bene, noi continueremo però. Io ringrazio i colleghi, i professionisti come Antonio Gigliotti, che non si arrendono all'idea che comunque il dottore commercialista è semplicemente un funzionario dello Stato pagato dai privati. È un professionista autonomo, capace di elaborare critica oltre che dare consigli ai clienti, nell'interesse di coloro che lo pagano, e cioè non dello Stato, a cui lui porta servizi gratis, avendo visto negli anni estesa la sua sfera, purtroppo, di compartecipazione dei rischi e responsabilità che dovrebbe essere solo il suo cliente e non sua. Ma l'intimidazione di Stato passa attraverso l'intimidazione del contribuente, non solo, no, del suo professionista cooperatore. E questo è indegno, perché è una violazione fondamentale delle professioni liberali. Invece l'associazione che riguarda oramai la sfera amministrativa, civile, solido, quindi i danè e quella penale, è una roba da autocrazia fascista. Questa è la mia opinione, non chiedo a Gigliotti di dire nulla perché non voglio comprometterlo di fronte ai suoi ordini e così via, ma io la penso così e lo ringrazio. Torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. E ora, cari ascoltatori dei Conti della Belva, e soprattutto solidarietà a chi abita nei tanti capoluoghi e ha pagato, ritorno a dirlo, dal 50 al 72% in più in maniera illegittima di Itari. No, tra cui noi a Milano, diciamo. State attenti, perché è vero che avete fino a 5 anni per chiedere i soldi indietro, ma li dovete chiedere subito, perché se non c'è la menzione esplicita di come si fa il calcolo della parte variabile della Itari sulle pertinenze, e nella stragrande maggioranza delle convenzioni, degli statuti, a seconda che sia internalizzato o esternalizzato la gestione del tributo, non c'è scritto, il comune quei soldi non ve li darà. Stiamo parlando di una maxi truffa di Stato che i giornali dovrebbero schiaffare in prima pagina, facendo il numero di milioni degli italiani truffati, per quanti anni, la cifra, incalzare i sindaci. Invece totale, abietta, oscena, feroce, totale appiattimento, è una cosa che finisce nelle pagine tecniche, capite? E invece no, bisogna fare una grande battaglia di principio, non si può accettare una cosa di questo genere. In realtà non solo si accetta, si fanno le interviste 2 pagine dicendo la colpa è degli italiani, voi non fate la lotta all'evasione, quando lo Stato addirittura calcola in maniera illegittima i tributi. Ma su. E come lo apprendiamo? Perché il sottosegretario Baretta, di fronte a un'interrogazione, io mi dispiace, va detto, era dei 5 Stelle, dice: no, è chiaro che è illegittimo. Ma com'è chiaro che è illegittimo? È anni che consentite che venga così. Ma che cazzo di paese è questo? In cui un sottosegretario dice: ma no, è chiaro che è illegittimo. Ma come? Va avanti da anni sta storia. Scusate se poi voi dite che noi esageriamo sul fisco. Bah, secondo me non facciamo abbastanza. Tema invece, è passato un anno. È passato un anno, no? Caro Alberto, di Trump. Un anno fa. E quest'uomo, diciamo, si può vedere nel bilancio da molti punti di vista. Insomma, tutte le cose disrupte che annunciava nei confronti delle tasse, vediamo. È appena nata la proposta e nel bilancio e nell'esame parlamentare. Farà la fine vediamo. Dell'Obamacare. Ma ecco. Muro del Messico, insomma, per il momento diciamo vediamo. Tutti i trattati bilaterali, a cominciare dalla guerra commerciale alla Cina, è appena tornato in Cina, ha firmato impegni per 280 miliardi e anche lì direi vediamo. Insomma, la mia impressione è che tutto ciò che si temeva non è avvenuto, quasi. C'è uno stile incredibile di gestione della sua comunicazione presidenziale, che è il core della sua presidenza, una specie di elettroshock quotidiano incontrollabile. Sono saltati diversi livelli dei suoi primi consiglieri e adesso è nelle mani di 3 militari: John Kelly, il suo capo staff, il generale Mattis e il generale McMaster, cioè il consigliere per la sicurezza e la difesa, che sono secondo me il livello più vicino a lui che tende a difendere la ragionevolezza, sì, vero, nella politica vero. Estera, nella politica commerciale e così via, nonostante le dichiarazioni sulla NATO obsoleta, sul NAFTA anche di da quello riscrivere. Però non ha fatto niente, perché poi va nell'Europa dell'Est e difende assolutamente, sì, invece sì, vero, vero, vero. Quindi non lo so, per me resta un grande punto interrogativo. Adesso questa settimana non si è schierato con i candidati repubblicani, quello di New York era quasi de tutto ipotetica, la candidata repubblicana contro Bill de Blasio, quindi è una sconfitta per il vecchio apparato del repubblicano che fa la guerra a Trump, ma a cui Trump riserva anche una guerra feroce. I democratici sono pieni di guai pure loro, perché guardate che le dichiarazioni dell'ex presidente del Comitato Nazionale dei Democratici Donna Brasile, se le avete lette, su la signora Clinton che si era comprata il partito e ha truccato le elezioni su Sanders, erano mica una passeggiata di salute per il sistema americano, quindi mi pare un bilancio col punto interrogativo. Sentiremo i compari come la pensano, ma intanto chiediamo ai nostri due ospiti come la vedono dal loro punto di vista. Abbiamo il professor Vittorio Emanuele Parsi, che insegna relazioni internazionali alla Cattolica. Grazie di essere con noi, Parsi. Grazie a voi, buongiorno. E Fernando Napolitano, che è un presidente amministratore delegato di Italian Business Investment Initiative a New York, da anni è uno dei ponti più autorevoli, riconosciuti per l'iniziativa che tanti anni fa, quando iniziò, quello di dare una forza sempre maggiore alle esperienze di conoscenza e di investimento diretto Italia-Stati Uniti, i giovani, le borse di studio e così via. Quindi è uno che vede dal di dentro e ha ben chiari gli interessi da una parte e dall'altra. Grazie Fernando di essere con noi. Non c'è, è caduta la linea, me lo dovete richiamare. Parsi, qual è il suo giudizio? Deluso? Sorpreso? Meno danni rispetto a quelli che temeva? Comunque troppi danni potenziali? Che dice? No, secondo me danni importanti sotto traccia, per così dire, nel senso in cui le manifestazioni non sono immediatamente lampanti, ma che si stanno realizzando. Ne dico solo due importanti dal mio punto di vista. Da un lato, nella braccio di ferro con la Cina, Trump non ha capito che il vantaggio strategico degli Stati Uniti nei confronti della Cina era la capacità di coalizione, la capacità di avere alleati e sostegno, diciamo così, sulle sue politiche. Oggi l'America è più isolata della Cina di Xi dal punto di vista internazionale, nel senso che alla fine anche i suoi alleati la sopportano ma non la sostengono. È chiaro che se lui scende sulla sua dichiarazione del tipo ogni paese è giusto che si faccia i suoi propri interessi, anche voi cinesi come noi americani, annulla di fatto tutto il vantaggio che gli Stati Uniti hanno accumulato dal 45 oggi e si mette sul terreno della Cina e su quel terreno lì la Cina è più forte di lui. Ah, sì. Quindi già quello secondo me è una totale incomprensione. Sì. Sta regalando gli europei alla Cina in un certo senso, proprio in termini di alleanza strategica. Assolutamente, ma sta regalando anche gli alleati del sud-est asiatico, perché quando salterà fuori che la politica americana sul Nord Corea alla fine non porta da nessuna parte, quelli che sono in quella regione inizieranno a guardare la Cina. Questo sarà un danno strategico incommensurabile. L'altro danno che ha già fatto è il Medio Oriente. Quello che sta facendo il principe ereditario Medio Oriente, il rischio di trasformare il Libano in un terreno di attentati da parte di gruppi sunniti pagati o ispirati dai sauditi, braccio di ferro sconsiderato nei confronti dell'Iran, l'appoggio alla politica saudita ovunque e dovunque, il rischio che i sauditi e gli israeliani insieme si sentano protetti completamente dagli Stati Uniti e facciano qualche alzata di genio, questo è un danno enorme alla stabilità medio orientale, in cui il Presidente degli Stati Uniti si fa in realtà guidare, attirare da giochi di potere dei suoi alleati minori. Questo lo denunciano gli osservatori americani, cioè non lo denunciano gli osservatori di Teheran. Questo è follia. E il cui effetto, oltre ad instabilità crescente, potrebbe essere paradossalmente proprio il rafforzamento di un'intesa Iran-Russia. Sì, ma un rafforzamento che rischia di portarci comunque a una guerra regionale, che nessuno può seriamente volere. E purtroppo la traccia che mi sembra di coerenza di Trump è una visione, mette insieme da un lato pregiudizi ideologici della destra repubblicana più trinariciuta, per così dire, e dall'altra... Però Passi, non lo devo spiegare a lei, cioè la destra repubblicana, ci siamo capiti, cioè quella un po' rozza nell'analisi internazionale, nella realtà non ha niente a che fare con Trump. Cioè qui non stiamo parlando di un presidente espresso da ciò che restava degli sconfitti neocon americani, è proprio gente, lo sa 100 volte meglio di me, che con lui non ha niente a che fare. Però sul Medio Oriente no, perché sul Medio Oriente la posizione che totalmente appiattita sulla destra israeliana, neanche sulla politica di Israele, ma su Netanyahu, che è un alleato debole in questo momento, sottoposto a una serie di pressioni, per cui debole, quindi disposto a qualunque atto. Il suo atteggiamento sull'Iran, il suo atteggiamento sui sauditi è veramente quello della destra neocon più tradizionale, perché quel poco, è vero che Trump non è espressione di quel mondo, ha le quattro cose che ha imparato sul leaflet, diciamo così, della sua campagna elettorale, vengo da quel mondo lì, quindi sa quattro sciocchezze. Le di quattro cose scritte da Ben. Ma beh, proprio su questo punto, se ha visto l'articolo dell'Economist di ieri, lui dice: non è soltanto un tema di scelte di merito di politica, è di metodo. Lui dice: l'Economist dice. Il buon Trump sta rafforzando l'idea che la politica è autocrazia e in un certo senso legittimando la politica autocratica, quindi togliendo la leva al modello liberale, lo fa anche in termini di stile comunicativo, la sua scelta di usare di fatto Twitter, no? Questo volevo capire che commento è. Questo è vero, ma fa parte della sua disistima, per usare un eufemismo, per quello che è sia il sistema di pesi e contrappesi, sia il sistema democratico nel suo complesso. Però anche su questo non dimentichiamo, dietro tutto questo movimentismo, tutto questo attacco ai fondamenti del potere americano tradizionale, c'è Russiagate. Cioè, Trump sta preparando il terreno perché se queste cose andranno avanti, potrà cercare di usare addirittura il popolo contro il palazzo. Beh, sono d'accordo, però fino a questo momento Russiagate, quello che conosciamo, tutti sti mesi, cioè insomma, alla fine portano una roba, sì, la Russia ha pagato gli spot, benissimo, d'accordo. Cioè, io no, a questo mi dispiace, non, a differenza della stragrande maggioranza, non reagisco come se fosse chissà quale manifestazione. È dai tempi del V secolo che si usano le fake news nella politica domestica e internazionale. Cambiano le piattaforme, cambiano gli effetti, la tecnologia just in time è diversa, però voglio dire, noi abbiamo fatto per decenni Radio Free Europe, perché la facevamo? Per la stessa ragione. Naturalmente non aveva la stessa efficacia che internet sui social. Ma soprattutto, però, soprattutto non è che Brezhnev si avvantaggiava di Radio Free Europe. No, qui, ma no, però voglio dire, fosse provata Brezhnev pagava i partiti comunisti, tutto, ma, cioè, voglio dire, certo, assolutamente. Detto tutto questo, benissimo. Però fino a questo momento anche l'indagine di coordinata Robert Mueller, insomma, non lo so, atteggiamenti di improprietà politica, quanto se ne vuole, roba che travolga l'amministrazione. Io penso che il vero rischio sia quello che qualcuno dell'amministrazione debba, emendamento 25 della Costituzione alla mano, un giorno corra il rischio di dire: guarda, hai fatto un disastro. Ma qualcuno dal di dentro più che dal di fuori. Però posso sbagliare. Adesso un minuto e torniamo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia. conti della belva. Allora, ci siamo lasciati con l'ipotesi di interpretativa su questa indagine di Robert Mueller, che a me, insomma, fino a questo, tutti questi mesi, a me sembra più, non mi sembra una roba da impeachment, ma magari sbagliamo e vedremo se emerge qualcosa. Mi sembra una roba molto da improvvisati, cioè gente che pensa che parlando con funzionari russi o con improbabili professori maltesi chissà cosa sta scoprendo, dopodiché sono in proprietà, però insomma impeachment sono un po' cose un po' diverse. Ma, ma in compenso io trovo orfana la politica italiana di qualsiasi forma di americanismo positivo o negativo, quindi nessuno sta con Trump, nessuno sta contro Trump, sembra che sia sparita dal radar. Io non so, cioè, gli entusiasmi pro-trumpiani di qualche anno fa. Vabbè, prego, guarda, Mario, no, ma stendiamo sopra un pietoso teatro tenda, perché voglio dire, chi vi parla ha incrociato in una trasmissione televisiva un clown che mi ha dato del venduto Trumpiani d'Italia, che poi si ricollegava ad un noto movimento di un noto generale in pensione che tuttavia ci tiene liete le giornate, per cui è anche un bene che in Italia i nostri guitti abbiano smesso di richiamarsi a Trump. Scusa, no, Carlo Alberti. Però io dall'altra parte dico, attenti anche invece a non capire che il fenomeno che ha espresso la presidenza Trump, cioè, non è una curva improvvisa della storia, una follia dettata dai russi. Cioè, parliamoci chiaro, cioè, all'elite americano è stato una lotta grande, forte, e che esprime un problema serio, irrisolto in quel infatti, paese. Infatti, in questo senso anticipa il mondo, l'America. Non nel senso migliore, forse auspicabile, però il personaggio per il momento mostra tutti i suoi limiti, i suoi collaboratori hanno mostrato persino i peggiori. Speriamo che questo stile di governo non provi guai. Il problema è capire cosa succede in questo mondo un po' imprevedibile, in cui il nemico cinese diventa improvvisamente quello in cui lui dichiara: io non ce l'ho con la Cina, la Cina ha fatto benissimo ad approfittare di noi, ce l'ho con gli americani. Ma però vedi, questa idea, questa concezione di un popolo, di un mondo a somma zero, in cui io vinco se tu perdi e viceversa, in cui chi importa perde, chi esporta vince, ma però, che è il fondamento marcio del protezionismo. No, questa è una roba che lui dichiara perché fa parte dello stile muscolare dell'imprenditore immobiliarista, che negli Stati Uniti, come dovunque nel mondo, diciamo, è uno un po' scafato e finge di stare su un ring di pugilato. Nella realtà i deal li fai trattando e venendo sempre meno all'ABC del pugilato, e lui è entrambe le robe. Il problema è che è troppo paradossale negli estremi di questo stile, totalmente impolitico, curva dell'attenzione zero, dossier niente, cioè, però in queste ore a Da Nang, non a Da Nang, da un'altra parte, scusate, stanno firmando il nuovo TPP, sì, la nuova Trans-Pacific Partnership, che sarà non più a 12 ma a 11. Stanno restringendo il campo, lo stanno focalizzando, infatti si chiamerà Comprehensive and Progressive Trade Pacific Partnership, per venire incontro alle esigenze di Justin Trudeau, che non vuole spaventare nessuno e lui è molto morbido. E quindi gli Stati Uniti non possono fare braccio di ferro con tutti su base bilaterale, perché finiscono contro un muro. Posso dire una cosa velocissima? Il problema di Trump, va bene, magari Mueller non troverà nulla, il problema di Trump inizierà a risolversi tra un anno al midterm, dove verranno poste le basi per il suo congedo. Secondo me, anche sbagliare. La sconfitta repubblicana sarà un'altra sconfitta del partito che lui in realtà contrasta. Però sentiamo la prima di Fernando Napolitano su questo. Fernando, che ci dici? Ma io direi che ovviamente condivido parecchie delle espressioni, dei pensieri che avete espresso fino ad oggi. Io direi che la valutazione di Trump in essenza va vista come dicono gli assistenti del primo ministro giapponese, nel senso, come dicevi tu, esiste un Trump mediatico twitterolo e poi esiste una persona differente. Gli scambi tra i due in un anno sono state più di 15 volte telefonate, più di 30 minuti, e questo ovviamente va incontro da una parte all'approccio unilaterale, che è un danno, ma direi che il danno vero di Trump sia proprio nel discorso del commercio internazionale, dove ovviamente questo attacco a Giappone, Germania, Cina ed altri, e con tariffe mirate che ovviamente agevolano per certi aspetti corporate America, sia il vero danno. E il secondo sia non tanto appunto le sparate che fa, ma le concessioni verbali che dà. Abbiamo visto la presa di posizione in Qatar perché ha dato mano libera, ha rafforzato i cosiddetti hardliner iraniani, con la Corea del Nord ha ingaggiato uno stile personale di battaglia contro il dittatore. Insomma, è una situazione dove gli analisti dicono che le chiamano le tail consequences, quindi le conseguenze di un approccio del genere aumentano la potenzialità di una esplosione di qualche guerra. Sì, ma sarebbe esplosione per così dire erratica, dovuta a fenomeni non controllati, scoordinati, che non esprimono forse neanche fin in fondo l'analisi degli interessi di quelli che stanno intorno al presidente. Questo è il rischio vero, su cui io sono d'accordo con Fernando Napoletano, e ringrazio Vittorio Emanuele Parsi che ci dà la lucidità ovviamente del quadro complessivo e anche la durezza dell'analisi. Certo, non avremo bisogno di una presidenza americana diversa, ma temo che il fenomeno della rottura dal basso continuerà, si vedrà anche nel midterm. Quello già, è il fenomeno. Grazie a tutti, compari. Ciao. Guerra!